Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Un giorno mio padre mi disse che cercava qualcuno per subaffittare una stanza. Sparsi un po' la voce e quasi subito trovai l'inquilino. Si chiamava Salvador, faceva l'attore e il burattinaio ed era bellissimo. Mi chiamo Amaranta, sono di Verona, ho due figli e sono una pittrice e un'illustratrice. Dedicherò la prima conferenza all'opposizione tra leggerezza e peso e sosterrò le ragioni della leggerezza. Questo non vuol dire che io consideri le ragioni del peso meno valide, ma solo che sulla leggerezza penso ad avere più cose da dire. Dopo 40 anni che scrivo fiction, dopo aver esplorato varie strade e compiuto esperimenti diversi, è venuta l'ora che io cerchi una definizione complessiva per il mio lavoro e proporrei questa. La mia operazione è stata il più delle volte una sottrazione di peso. Ho cercato di togliere peso ora alle figure umane, ora ai corpi celesti, ora alle città. Soprattutto ho cercato di togliere peso alla struttura del racconto e al linguaggio. In questa conferenza cercherò di spiegare a me stesso e a voi perché sono stato portato a considerare la leggerezza un valore anziché un difetto. Come la melanconia e la tristezza diventata leggera, così lo humor è il comico che ha perso la pesantezza corporea. Italo Calvino, Le lezioni americane. Sono le 16:10 di un bel lunedì, 24 di febbraio 2014. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24. Io sono Matteo Caccia e il programma invece si chiama Voi siete qui. Oggi ho aperto con questa splendida definizione della leggerezza che conoscerete, o se non conoscete, prima o poi ci sareste incappati, della leggerezza, vi dicevo, data da Italo Calvino nelle lezioni americane. E ho deciso di leggerla oggi un po' perché è un manifesto, secondo me, importante della vita di ognuno di noi, anche quando ci viene il fegato così, anche quando le giornate sembrano veramente un macigno. Rileggersi queste cose, cercare di trovare una forma di leggerezza in quello che si fa, è un valore assoluto. Ma soprattutto perché la puntata di oggi, la puntata raccontata da Amaranta, la storia che ci ha raccontato Amaranta, parla proprio di quella cosa. Parla di una persona stupenda che illumina la vita sua e delle persone che gli stanno vicino. Parla di una persona leggerissima, ma con un peso fortissimo dentro di sé. Una persona che alla fine non riuscirà probabilmente a togliersi da quella maledizione che si era tirato addosso, ma che in qualche modo riesce, appunto, grazie anche a quell'allegra sua malinconia, a regalare leggerezza a lei, ad Amaranta, ai suoi figli e alle persone che stanno vicino a loro e a lui. La puntata di oggi si intitola Salvador ed è il nome della persona che Amaranta ci racconta. 349-238-6666 è il numero di SMS per scrivere, SMS, ripeto, in diretta. Altrimenti, se avete un profilo Facebook, il nostro profilo è Voi siete qui, Radio 24. Visto che Salvador entra nella vita di Amaranta come ospite, come un ospite che capita in casa, prima sul divano e poi invece diventa un ospite fisso nella sua vita, anche se va ad abitare da un'altra parte. Oggi noi cerchiamo di dedicare quella puntata a loro, agli ospiti che inaspettatamente in qualche modo vi hanno cambiato la vita. 349-238-6666, persone che avete magari, con cui avete condiviso una stanza durante le vacanze, oppure che avete ospitato a casa, o che quando eravate universitari sono passati dal vostro appartamento e, ripeto, non so come, però un pochettino la vita ve l'hanno migliorata. Voi siete qui, R24, al nostro profilo Twitter, Matteo Caccia è semplicemente il mio, e Barbara subito ci scrive: ricordo degli ospiti, dei ragazzi svedesi conosciuti in Grecia. Erano in giro per l'Europa con l'Interrail e decisero di venire a trovare me e le mie amiche a Roma. Strappai ai miei il permesso di farli accampare con la tenda nel giardino. La vita, l'idea che ne avevo di certe cose, me l'hanno cambiata più che a me l'hanno cambiata i miei genitori, che al mattino si alzarono presto per andare a prendere cornetti per tutti. Erano genitori piuttosto attenti e tradizionali e non credevo avrebbero digerito la tenda, gli svedesi e tutto il resto. E invece mi sorpresero, e forse si sorpresero anche di se stessi. Molte conversazioni furono più semplici con loro dopo. 349-238-6666. Sembra un personaggio uscito da un film di Almodovar, Salvador. Quindi prendetevi un quarto d'ora, mettetevi comodi e sentitevi un pezzo della storia della sua vita. Mia madre era morta da qualche mese e la casa per mio padre era troppo grande e troppo silenziosa. C'eravamo noi, i suoi figli e i nipoti, ma non eravamo una presenza costante, quotidiana. Avevamo le nostre vite, Io separata da poco, due bambini piccoli. Un'attività, quella di pittrice ed illustratrice, che ora è diventata solida e remunerativa, ma allora era solo agli inizi. Un giorno mio padre mi disse che cercava qualcuno per subaffittare una stanza. Non aveva bisogno di denaro, aveva bisogno di compagnia. E l'idea ci piacque. Una presenza in casa ci avrebbe sollevati dai sensi di colpa e dai cattivi pensieri quando la sera lo sapevamo solo, ma non avevamo voglia di andarlo a trovare. Eravamo un po' cialtroni ed egoisti e lui, a nostra discolpa, aveva un caratteraccio prepotente tutt'altro che conciliante. Sparsi un po' la voce fra gli amici e quasi subito trovai l'inquilino. Me lo trovò un'amica, tornata da poco da una vacanza alle Canarie con un gruppo di colleghi. Lo aveva conosciuto lì. Lui le aveva detto che voleva trasferirsi in Italia per qualche mese prima di recarsi a Birmingham, dove aveva vinto una borsa di studio per fare uno stage per come imparare a morire sulla scena. «Senti», mi disse, «si chiama Salvador, fa l'attore e il burattinaio alla Spalmas ed è bellissimo». Ma mi era stato appunto descritto come un ragazzo estremamente bello, affascinante e di conseguenza aveva un po' sollecitato la mia curiosità. Poi subito dopo mi è stato detto da questa mia amica che era un attore, un presentatore. Ma che cosa? Chiesi io, che avevo sentito questo grande ma sospeso nell'aria stemperare il mio entusiasmo e la mia aspettativa. «Ma è gay?» mi disse. «Quanto gay?» chiesi. «Tantissimo», mi rispose lei. «Non farti illusioni. Poi non dire che non te l'avevo detto, perché appena lo vedrai te ne innamorerai». E sì, me ne innamorai. Perdutamente, senza speranza. Arrivò dopo qualche giorno, pochissimi in verità. Giunsi a casa di mio padre col batticuori e grandi aspettative, nonostante tutto. Mi feci bella, nonostante tutto. Mi aprì mio padre, che sembrava già avere perso quel velo di tristezza che lo accompagnava da quando mia madre se n'era andata. Mi portò in cucina, dove Salvador aspettava di conoscermi. Era lì con un bicchiere di whisky cola in mano, avvolto in una vestaglietta di ciniglia color tabacco, dalla quale uscivano due gambette magre. I piedi infilate in un paio di improbabili infradito di gomma nera. Era bellissimo. Occhi neri da cerbiatto, ciglia lunghissime, labbra carnose. Un naso importante, leggermente aquilino. Capelli nerissimi, lucidi, lisci, raccolti all'indietro in una coda. Aveva una bronzatura dorata e un sorriso irresistibile, ironico e femmineo, e parlava un seducentissimo itagnolo. Bene, pensai. Eppure eri stata avvisata. Non mi dilungo su ciò che avvenne nei giorni e negli anni a venire. Vi dirò solo che Salvador non usufruì mai dei soldi della borsa di studio a Birmingham e rimase con noi per 9 lunghi anni. Vi posso solo dire che il mio caro, amatissimo Salvador non fu mai mio in senso stretto, a parte qualche fugace bacio che riuscì a strappargli in qualche serata alcolica, durante le quali mi rovesciava l'anima in mano, fra dolore, ironia, carambole verbali, citazioni, risate, lacrime e ricordi del passato da cui stava fuggendo. Un'infanzia costellata dall'umiliazione di essere bello come una bambina in un paese franchista e quindi macista. Un amore appena finito con un compagno molto più grande di lui. La cocaina, l'alcol, una insostenibile fragilità che improvvisamente fui destinata a proteggere, perché di lì a pochissimi giorni io lo portai a casa mia. Con i miei due figli, piccoli, che lo adoravano, anche perché lui gli preparava torte buonissime e succulenti piatti delle Canarie, a base di banane fritte e altre amenità esotiche. Passava gran parte del tempo con la sua vestaglietta di ciniglia, affacciato alla finestra, a contemplare il meccanico dell'officina di fronte, fumando e bevendo senza sosta. Non era un grande esempio per i miei bambini, tecnicamente parlando, ma io non me ne sono mai preoccupata. Lo amavano incondizionatamente. Lo amarono i miei amici e perfino l'uomo che dopo un paio d'anni entrò nella mia esistenza con tutto il carico dell'ineluttabilità che la vita porta con sé. I miei figli con lui avevano un rapporto bellissimo perché era un ragazzo straordinario, con un'umanità incredibile, poi era divertente, era estrionico, era un po' buffone e poi era un po' esotico, gli preparava questi piatti squisiti, particolari, mi ricordo la super pasta fatta con ogni cosa incredibile, patatine fritte, maionese, schifezze varie, banane fritte. Nel frattempo io gli insegnai a dipingere, lui mi insegnò a costruire i burattini e a mettere insieme spettacoli teatrali con cui per qualche anno ci mantenemmo. Lui mi insegnava lo spagnolo e io l'italiano. I miei figli non sospettarono mai che lui fosse omosessuale perché per un qualche strano motivo lui non voleva che lo sapessero. Lo scoprirono solo molto tempo dopo, quando lui se ne tornò alle Canarie. Nel frattempo lasciò il mio divano. Andò ad abitare da altri amici, divenne buddista, studiò canto con una brava cantante jazz e un giorno ricevetti la telefonata di Fiorello, a cui lui era stato fatto, di cui era stato fatto il nome perché in ogni città in cui andava col karaoke si avvaleva di un buon cantante durante le serate. Ma lui non voleva e mentre Fiorello mi pregava di intercedere per convincerlo, lui faceva il buffone, mi faceva segno di dirgli che era partito. Fece il barista, l'intrattenitore, smise di essere buddista, si innamorò senza speranza sempre e solo di eterosessuali. Tornò più volte a dormire sul mio divano, ma non smise mai di bere. Fino a quando, col cuore in pezzi, non lo mettemmo quasi di forza su un aereo in direzione Las Palmas, dove comunque lo aspettava una bella famiglia, una madre, un fratello e una sorella che io avevo nel frattempo conosciuto e su cui contavo perché lo aiutassero a ritrovare un centro che qui, nonostante tutto il nostro amore, non aveva trovato. E credo che un po' non me l'abbia mai perdonato. Tuttavia ci chiamavamo e ci scrivevamo spesso, ma lui sembrava sempre più lontano. Non tornò mai più a Verona e ci scoraggiò di andare a trovarlo a Las Palmas. Continuò a lavorare, particine in teatro, pubblicità televisive. Poi un giorno mi arrivò la brutta, bruttissima notizia della sua morte per cirrosi epatica. Ma io non ho le prove che sia morto, forse sta solo recitando. Bella donna dai capelli rossissimi, Amaranta, nella foto che ci ha mandato e che potete vedere sempre sul nostro sito, alla pagina di Voi Siete Qui, il sito è quello di Radio 24 ovviamente. Ha gli occhiali da sole, è estate, è vestita di nero, alle sue spalle una fila di oleandri e a giudicare un po' dalla luce del sole che sembra essere al crepuscolo, un po' dalla sua pelle colorata, ma soprattutto un po' dalla targa di un'auto alle sue spalle, potrebbe benissimo essere in Spagna. Pronto, Amaranta? Ciao Matteo. Come stai? Spagna e Grecia. Ah, ho visto questa targa un po' strana alle tue spalle di una macchina, ho detto magari la becco lì sul luogo del delitto, invece no, eri da un'altra parte in vacanza. Di recente? No, qualche anno fa, non tantissimi. Okay. Dove in Grecia esattamente? A Paros. A Paros. Invece tu non ci sei mai andata poi alle Canarie insieme a Salvador, ma nemmeno quando era da voi in Italia? No, lui non è mai tornato alle Canarie. Mai? No. Nemmeno durante le vacanze estive? No, non è mai più voluto tornare, lui aveva un po' paura a tornare. Di quanti anni fa stiamo parlando, Amaranta? Quando è arrivato e quando è partito? Stiamo parlando di parecchi anni fa, è arrivato una ventina d'anni fa e se n'è partito dopo 9 anni. Dopo una decina d'anni. E quando è mancato? Quando è che hai avuto la notizia? Circa 3 anni fa. Ah, ok, quindi insomma è già passato anche un po'. Hai avuto modo di elaborarlo in qualche modo? Fino ad un certo punto, devo dirti la verità che mi ha molto commosso quella cosa sulla leggerezza. Sei stato veramente bravo perché hai colto straordinariamente nel segno. Oltretutto la leggerezza è sempre stato un po' il mio punto di riferimento. Quindi sei stato, oltre alla grazia che hai messo nel raccontarla, Mi ha commosso. Guarda, non l'ho mai elaborato comunque, forse perché non l'ho più visto, è sempre vivo. C'è da dire questa cosa, a parte che a me rimane nella testa questa immagine che è al contempo appunto bellissima ma anche malinconica in qualche modo, di lui con la sua vestaglietta appoggiata alla finestra che guarda il meccanico di fronte, sì, ma ha sempre in mano questo bicchiere, insomma, troppo, questa forma di droga che non lo molla. Aveva costantemente in mano questo bicchiere. E a questo proposito volevo dire una cosa, una sciocchezza, ma la voglio dire, questa orrenda, continua, ipocrita polemica sulle canne. È l'alcol che uccide le persone più delle canne. Io ho tanti amici che si sono fatti le canne e non sono morti, stanno benissimo. Amaranta, tu quanti anni hai adesso? Io ne ho 60. Ah, ma nella foto sembri una ragazzina. Me li porto bene. Quindi sei è ancora... la leggerezza che mi aiuta. Sei ancora con la persona con cui stavi quando hai conosciuto poi... Sì, stai sì, ancora sì, con lui. Ecco, lo so che è una baggianata da uomo, però probabilmente qualcuno se lo chiede. Come l'ha vissuta il tuo nuovo compagno all'epoca, quando ha conosciuto Salvador? Come l'ha vissuta? Sì. Se ne è un po' innamorato anche lui, perché non ci si poteva non innamorare di Salvador. Sai, la fragilità, la sua fragilità e la sua simpatia incredibile, la sua leggerezza, pur essendo una persona con grandi problemi, e poi era veramente un istrione. Senti, c'è tra l'altro questa cosa per cui tutti si innamoravano di lui, financo tuo padre per primo, che sì, si è trovato in casa uno straniero. È vero che l'aveva voluto lui, no? Aveva voluto... Solo ti dirò una cosa, mio padre era un tantino omofobo come le persone di una certa età, eppure no, lui conquistava veramente tutti. Io vi ho mandato la foto, non so, l'avete anche vista, era bellissima. Guarda, l'abbiamo vista, ma non era la bellezza sola, l'abbiamo vista, Amaranta, e con il tuo permesso l'abbiamo pubblicata sul nostro profilo Facebook, perché sembra veramente un attore. Sembra chiaramente uscito, vabbè, la mia, poi il mio immaginario è abbastanza ristretto, però sembra uscito da un film di Almodovar, da un film degli anni 80-90, con questo profilo spagnolo. E devo dire che proprio grazie alla tua storia un po' tutti ci siamo innamorati di questa figura, che è una figura che arriva da lontano, è proprio l'idea dello straniero, no? Che arriva da lontano, non conosci, occupa la tua vita per un certo periodo e poi se ne va e ti lascia una grande gioia ma anche un grande vuoto. E ti ringrazio per averci raccontato questa storia in generale. Tra l'altro so che tu non volevi farlo, però io ho visitato il tuo sito. Sì, ma ti prego, non voglio no fare no no pubblicità. Però volevo solo capire come ci sei arrivata a fare questo mestiere, non voglio fare pubblicità. Io sono più o meno nata con la matita in mano, nel senso che ce l'ho di natura, però ho cominciato così, un giorno andando in Piazza Brada ad aiutare i miei figli a disegnare per terra, mi sono resa conto che mi piaceva. E adesso è un mestiere e funziona, insomma. Sì, sì, bene. Funziona, è da lavorare anche ad altri, e è il mio mestiere da 20 anni ormai. Amaranta, grazie ancora, in bocca al lupo per tutto. Grazie a te. Ciao, a presto. Ciao, ciao, ciao, ciao. 349-238-6666, qualcuno che rimane anonimo scrive: sono una couch surfer, cioè sono una di quelle che dorme sui divani sostanzialmente, detta male, ospito gratuitamente gente da ogni parte del mondo ed è sempre una grande ricchezza per tutti. Voi siete qui Radio 24, volevo leggere un altro commento che è arrivato prima di chiudere. Raffaella dice: cambiare vita è un po' troppo, ma un anno a Pasqua passava dalle parti di casa mia un ragazzo inconsciamente conosciuto in chat, l'ho invitato per un caffè e con la casa piena di parenti mescolati alla proverbiale accoglienza terrona, questo mio amico si è fermato per cena, poi a dormire su una branda di fortuna, pasquetta sul Monte Conero con i miei amici e lui a cantare canzoncine di pirati e coniglietti. Fu il primo a cantarmi canzoni romantiche per telefono. Ci siamo persi di vista, ma una volta all'anno ancora ci scambiamo gli auguri. E con l'immagine di un uomo o di una donna che entrano nella vostra vita, ve la arricchiscono e poi se ne vanno per la loro strada, che vi saluto oggi, è il primo giorno della settimana. Continuate a inviare storie, voi siete qui, @radio24.it. E soprattutto continuate a raccontarle oggi sempre di più. Grazie a Tiziano Bonini, grazie a Margherita Hina, grazie a Paolino Corleoni, grazie soprattutto ad Amaranta, perché la storia di oggi era la sua e anche lei è un punto rosso su una mappa.